l'afasia di questo personaggio trasformato in insetto e sullo stile dello scrittore che dell'uomo trasformato in insetto ci racconta. Ma prima di questo ci siamo fatti e ci facciamo qui la domanda: perché leggere o continuare a rileggere Kafka oggi, a 100 anni dalla pubblicazione? E questa domanda la giriamo prontamente al filosofo Giacomo Marramao. Dovessi dire le varie ragioni per le quali un testo come la Metamorfosi è un testo che si proietta sul nostro presente, è in primo luogo la crucialità della questione dell'identità. Rapporto tra identità e corpo. E rapporto poi identità-corpo-ambiente quotidiano. Il problema della nostra estraneità al luogo in cui viviamo. Quando anche fosse il luogo più familiare, anzi più familiare, più ci è estraneo. Nel senso della Unheimlichkeit freudiana, di questa sorta di familiare estraneità. E poi in terzo luogo il proiettarsi di Kafka verso una dimensione che potremmo chiamare quella del posto umano, e in qualche modo prelude a una tematica che va oltre la dimensione dell'umanesimo. In qualche modo Kafka non è un pensatore né umanista né antiumanista, è un pensatore, uno scrittore postumanista che ci aiuta a tematizzare il nostro posto nel mondo su due versanti. Per un verso sul versante dell'animalità e per l'altro verso sul versante della tecnica, degli artifici. Artifici linguistici e tecnologici. In qualche modo Kafka è tutto ciò. È stato amato da alcuni grandi nella sua epoca, ma direi che, a parte Max Brod e pochi altri, è stato inattuale. Cioè, inattuale significa non demodé, appunto, ma inattuale significa, nel senso di Nietzsche, colui che è capace di guardare oltre il presente e di conseguenza è destinato a non essere compreso dai propri contemporanei. Nella stanza di sinistra subentrò un silenzio penoso. In quella di destra la sorella cominciò a singhiozzare. Perché la sorella non andava con gli altri? S'era certo alzata solo in quel momento e non aveva cominciato a vestirsi. Per quale motivo piangeva? Perché lui non si alzava e non faceva entrare il procuratore? Perché rischiava di perdere il posto? Perché in questo caso il principale avrebbe ripreso a perseguitare i genitori coi vecchi crediti? Per il momento erano preoccupazioni superflue. Gregorio era sempre lì e non pensava appunto ad abbandonare la famiglia. Giaceva sul tappeto. E nessuno, nel vederlo in quella condizione, avrebbe potuto pretendere sul serio che facesse entrare il procuratore. E ricordo che questi sono estratti della lettura di Nando Gazzolo. Se volete la lettura completa la potete trovare in podcast sul sito di Radio 3. E stiamo addentrandoci sempre più nel cuore della puntata, in cui il tema principale, ossia quello della voce di Gregor, assume i connotati manifesti della caduta del linguaggio. Era la voce di un animale, dice il procuratore, appunto. E questa caduta del linguaggio sembra essere il precipitato, la disfunzione di una frattura tra linguaggio e mondo circostante. Questo accade tanto più nella modernità e poi nella postmodernità. Per una ricognizione sulla lingua di Kafka ne parliamo con Enrico Ganni, traduttore della Metamorfosi e editor per la narrativa straniera, appunto, presso Einaudi. Ma prima di Enrico Ganni, ancora un estratto dalla bellissima lettura di Nando Gazzolo. Signor procuratore! Gridò Gregorio fuori di sé, dimenticando per la citazione tutto il resto. Apro immediatamente! Un leggero malasso ad un capogiro mi hanno impedito di alzarmi. Sono ancora a letto, ma sarò subito a posto. Marcio subito, un momento di pazienza. Non sto ancora come speravo, ma va già meglio. Chi si aspettava una cosa simile, così d'un tratto? Ieri sera stavo benissimo, i genitori lo sanno. Oh, per essere precisi, proprio ieri sera sentii qualche cosina. Mi si doveva vedere in faccia! Perché? Perché non ho avvertito la ditta? Uno spera sempre che il malessere passi senza bisogno di restare a casa. Signor procuratore, abbi riguardo per i miei genitori. Tutti i rimproveri che la mia fatta sono infondati. Nessuno m'accenna mai a nulla, neppure con una parola. Forse non ha visto le ultime ordinazioni che ho spedito. Ma del resto posso ancora partire col treno delle 8. Qualche ora di riposo è bastata per rimettermi in... Non si trattenga, signor procuratore. Io stesso sarò subito in ditta. Abbia la bontà di dirlo al principale, presentandogli i miei omaggi. Loro hanno capito una parola? Chiedeva il procuratore ai genitori. Non ci sta menando per il naso? Per l'amor di Dio! Gridò la madre tra le lacrime. Forse sta malissimo e noi lo tormentiamo. Grete, Grete! Chiamò. Sì, mamma, rispose la sorella dall'altra parte. Si parlavano attraverso la camera di Gregorio. Corri subito dal dottore. Gregorio sta male. Svelta, dal dottore. Hai sentito come parla? Era la voce d'un animale, disse il procuratore, in tono singolarmente basso rispetto alle grida della madre. La lingua di Kafka è una lingua povera, e questo per mille ragioni, familiari, sociali, storiche, e forse vale la pena spendere due parole sullo sfondo. Il padre di Kafka, Hermann, veniva da un villaggio a una sessantina di chilometri da Praga. Parlava un tedesco a sua volta molto stentato, perché quella lì era una zona sostanzialmente dove si parlava ceco e dove c'erano delle piccole minoranze che parlavano in tedesco, ma era un tedesco sempre molto lacunoso. A un certo punto, poi magari ne riparleremo anche più avanti, si trasferisce a Praga, dove i tedeschi erano l'elite. Teniamo presente che però loro sono ebrei. I tedeschi erano l'elite, cioè erano gli industriali, i banchieri, i proprietari terrieri, i commercianti, ma anche una esigua minoranza, erano il 7% della popolazione. I contatti con i ciechi erano pochi, non parlavano la lingua, e c'era questa sorta di arroccamento sulla lingua, di difesa della cultura e della lingua, che però era una lingua appunto statica, insulare e anche burocratica, visto che molti tedeschi poi lavoravano nella burocrazia dell'impero austro-ungarico, che faceva riferimento a Vienna e che quindi parlava tedesco sostanzialmente. Gli scrittori se ne stavano sostanzialmente per conto loro, nei loro caffè, gli scrittori di lingua tedesca, nei circoli, e Kafka era uno dei pochi che conoscevano anche la lingua ceca. Bisogna tenere presente che a un certo punto Kafka, appunto nel momento in cui in qualche modo il Hermann riesce a mettere radici col suo negozio a Praga, la scelta è di mandare Kafka prima alla scuola elementare e poi al liceo tedesco, ma è una scelta, come dire, dovuta a una strategia sociale, nel senso che il tedesco era quello che avrebbe consentito al figlio di fare in qualche modo carriera. Quindi è un tedesco che viene imparato lì, in quella sede, davvero, no? E di fronte a questa generalizzata povertà linguistica per il tedesco, intendo dire di Praga, le scelte degli autori erano spesso di usare uno stile barocco molto metaforico. E invece Kafka fa, quando poi si metterà a scrivere, una scelta diametralmente opposta, con un linguaggio molto sobrio, molto asciutto, privo di acrobazie verbali, di aggettivi barocchi, di metafore esagerate. Se si prende, ad esempio, se paragonato alla ricchezza stilistica di Thomas Mann, che invece è coevo di Kafka, ma scrive appunto dalla madre patria, dalla Germania, da Lubecca prima e da Monaco dopo, la lingua di Kafka appare spesso forzata, non fluida, ed è questo un po' il retroterra su cui bisogna inquadrare le scelte, e su questo forse ci si può riallacciare a quanto dicevamo sulle traduzioni, dove invece a mio parere c'è stata, soprattutto in passato, la tendenza a alzare il testo, cioè a renderlo più colto di quello che è. A leggerlo attentamente, Kafka usa pochissime parole che non siano del linguaggio comune. Tenete presente che qui a questo punto c'è già anche una lunga esperienza di Kafka in ambito lavorativo, perché Kafka dove lavora? Lavora prima alle assicurazioni generali e poi alle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, e il suo lavoro è quello sostanzialmente di un lavoro anche burocratico, se vogliamo, anche socialmente molto impegnativo, però è un lavoro anche molto, se vogliamo, basato sulla carta, no? Quindi ecco, anche lì, anche quell'esperienza probabilmente in qualche modo l'ha formato. E quindi appunto il linguaggio è un po' quello, è un linguaggio povero, perché Praga era un'isola, cioè bisogna immaginare che all'epoca non c'erano i mezzi di comunicazione di oggi, no? Era un'isola, i contatti potevano essere con Vienna, ma già per andare in Germania ci volevano visti, ci volevano permessi, non è che si potesse girare così facilmente, la radio c'era appena appena, degli altri mezzi di comunicazione di massa non se ne parlava, e quindi era un tedesco così molto, molto, molto limitato, molto chiuso in se stesso. Grazie ancora Enrico Ganni, che come nella precedente puntata ha compiuto una sorta di radiografia della lingua di Kafka, e dalla lingua di Kafka alla scrittura, ai possibili spunti che questa scrittura offre. Ascoltiamo nuovamente Giacomo Marramao, il filosofo Giacomo Marramao, che è autore di numerose opere, tra cui ricordiamo qui Passaggio a Occidente, Filosofia e Globalizzazione del 2003, oppure La Passione del Presente 2008 e ancora Contro il Potere del 2011. E proprio a partire dai rapporti di Franz Kafka con l'ebraismo e con il potere, Giacomo Marramao ci offre una serie di spunti importanti, anche in chiave spirituale. Quello che è un punto importante notare proprio riguardo alla Metamorfosi, come anche riguardo altri testi di Kafka, è questo carattere netto, tagliato, secco e, se si vuole, estremo della lingua di Kafka, che è una lingua tedeschissima, però al tempo stesso lontana dal tedesco classico, dallo Hochdeutsch, cioè è un tedesco lavorato ai fianchi, che, in cui le parole sono condotte fino al grado estremo della propria resa espressiva. Ebbene, ecco, qui Kafka dice una cosa molto importante, che è una chiave della sua scrittura, che vale per la Metamorfosi anche ad altissimo grado: una proposizione chiusa mi conferisce una forza infinita. Una proposizione chiusa, questa capacità, come dire, di rendere le frasi, delle frasi chiuse, secche, taglienti. Io penso che Kafka proprio vada letto sulla base di un doppio registro. Per un verso il registro della quella sua familiare estraneità rispetto all'ebraismo, tipico atteggiamento come quello di Freud, di ebreo disaffiliato. E per altro verso, e quindi diciamo il lato della legge, il lato del padre, del problema della liberazione della figura paterna, che è un problema eterno dell'ebraismo, ma è anche una delle chiavi naturalmente del potere. Per l'altro verso però questo elemento che sta lungo la linea d'ombra fra l'aldiqua e l'aldilà, fra questo mondo e Dio e la trascendenza, che è il grande tema della Kierkegaard Renaissance, della rinascita kierkegaardiana alla quale noi assistiamo intorno agli anni 17, 18, 19, 20 del Novecento, dove emerge una tendenza nuova, che è quella della teologia dialettica, della teologia della crisi, della teologia negativa, e quindi una teologia radicale che in qualche modo mette in feconda tensione l'elemento della trascendenza di Dio e l'elemento del mondo, che è soltanto mondo in qualche modo, che vive nella sua radicale, irredimibile quasi autonomia. Beh, questo è il grande tema di Kafka. Ecco, io penso che per questa ragione in Kafka la tematica dell'esistenza e la tematica della religione siano intercommutabili, si possono permutare reciprocamente, e per questa ragione io ritengo che sia un po' forzata, anzi direi un po' troppo forzata, la lettura dell'opera di Kafka e della sua nudità esistenziale nei termini biopolitici della nuda vita, eccetera eccetera. Ecco, io penso che il vero problema sia uno: da un lato rendersi conto, come diceva Canetti, che Kafka è il più grande esperto del potere, va alle radici dei meccanismi del potere, che è lo straniamento della realtà, che è alla base dello straniamento di noi stessi, che possiamo superare soltanto attraverso la metamorfosi. La metamorfosi, in fondo, è quella che consente anche a Gregor di sfilarsi dai meccanismi di condizionamento, di potere, di ricatto con connessi e sensi di colpa della famiglia, no? Anna! Anna! Gridò il babbo attraverso l'anticamera in direzione della cucina e batté le mani. Vada subito a chiamare un fabbro! Dunque, le sue parole non erano più comprensibili, sebbene a lui fossero sembrate abbastanza chiare, più chiare di prima, forse perché ci aveva fatto l'orecchio. Ma allora gli altri dovevano avere capito che qualcosa non andava e l'avrebbero aiutato. La fermezza e la risolutezza con cui erano stati presi i primi provvedimenti gli avevano fatto bene. Si sentiva di nuovo incluso nella cerchia umana. Dall'intervento del medico e del fabbro insieme, senza troppo distinguere, sperava imprevisti, meravigliosi risultati. Per avere una voce quanto più chiara possibile nelle imminenti, decisive conversazioni, tossicchiò, raschiandosi la gola, ma con discrezione, perché era probabile, da solo non si sentiva di affermarlo con sicurezza, che essa non suonasse come una tosse umana. Nella stanza accanto non si sentiva più nulla. Forse i genitori erano seduti accanto al tavolo col procuratore e parlavano sottovoce. Forse stavano con l'orecchio incollato all'uscio ad origliare. Per condire e commentare musicalmente questo viaggio intorno alla metamorfosi di Kafka, abbiamo scelto le musiche del conterraneo e quasi contemporaneo Erwin Schulhoff, compositore nato a Praga l'8 giugno del 1894 e deceduto nel campo di concentramento di Weissenburg in Baviera il 18 agosto 1942. Schulhoff è compositore praghese di formazione tedesca, tra l'altro fu tra quelli accusati dalla propaganda nazista di scrivere Entartete Musik, ossia musica degenerata. Di Schulhoff abbiamo prediletto quelle pagine, come dire, che si avvicinano spiccatamente al mondo del jazz e dei ballabili, proprio per mantenere questo rapporto tra Kafka e l'ironia, Kafka e un certo tipo di umorismo al quale lui credeva leggendo la sua metamorfosi agli amici. E di Schulhoff oggi ascoltiamo un blues nella versione per quartetto di sassofoni eseguita dal quartetto di sassofoni Berlage di Amsterdam. Thank you. E di Erwin Schulhoff abbiamo ascoltato Blues nella versione per quartetto di sassofoni, eseguito dal quartetto di sassofoni Berlache. Dalla corrispondenza di Franz Kafka con la fidanzata Felix Bauer possiamo trarre una cronaca piuttosto dettagliata della stesura della Metamorfosi che, lo ricordiamo, si protrasse dal 17 novembre al 7 dicembre del 1912. È questo il secondo racconto lungo e compiuto prodotto da un Franz Kafka allora 29enne, e le tappe di questa stesura vengono descritte a Felix in maniera ora distesa, ora affannata, con un certo grado di compiacimento. Kafka scrive di notte, si dedica a più lavori e progetti contemporaneamente, portando a conoscenza della fidanzata lo stato dei lavori passo dopo passo. Ed ecco un estratto delle lettere. Oggi probabilmente scriverò ancora, anche se dovrò andare molto in giro, e scrivere un breve racconto che mi è venuto in mente a letto, nella mia pena e incalza dentro di me. 17 novembre. Mi sono riaccostato al mio racconto di ieri con infinito desiderio di espandermi, chiaramente pungolata dallo sconforto, con l'ardente desiderio di continuare il nuovo racconto, anch'esso insistente, da alcuni giorni e notti pericolosamente vicino a una completa insonnia. 18 novembre. È notte, molto tardi. Ho messo da parte il mio raccontino, al quale veramente non ho più lavorato da due sere. Nel silenzio comincia ad aumentare e a diventare un racconto lungo. Sarebbe bello leggerti questo racconto ed essere intanto costretto a tenerti una mano, perché la storia è un po' paurosa. È intitolata Metamorfosi, ti incuterebbe molta paura. Oggi anche al protagonista del mio raccontino è andata troppo male, eppure è soltanto l'ultimo gradino della sua disgrazia che ora non avrà più fine. 23 novembre. Ora è già arrivato un pezzo oltre la metà e io in complesso non ne sono insoddisfatto, ma è nauseante oltre ogni limite. Certo, ci sono ancora in me molte cose da eliminare e le notti non possono essere lunghe abbastanza per questo lavoro che d'altronde è estremamente voluttuoso. 24 novembre. Piangi, cara, piangi. Questo è il momento di piangere. Il protagonista del mio raccontino è deceduto un momento fa. Se ciò ti conforta, sappi che è morto abbastanza pacificamente e riconciliato con tutti. Il racconto stesso non è proprio terminato. Ora non ho voglia di occuparmene. E lascio la conclusione a domani. È anche molto tardi. 5-6 dicembre. Carissima, ascoltami. La mia piccola storia è terminata, ma la conclusione scritta oggi non mi piace per nulla. Avrebbe dovuto essere migliore. Non c'è dubbio. 6-7 dicembre. Di Erwin Schulhoff abbiamo ascoltato il Ragtime dalla suite per orchestra da camera con la Ebony Band di Amsterdam diretta da Werner Herbers. Ed è un caso, forse no, ma insomma questa suite per orchestra da camera fu scritta proprio nel 1912, anno della composizione della Metamorfosi. Abbiamo già accennato a Franz Kafka come interprete del suo tempo di crisi e di come la sua invenzione letteraria contenga qualità profetiche che d'altro canto gli derivano dalla formazione culturale che attinge appunto a diversi riporti ma che trova il suo punto centrale nell'ebraismo. E la riflessione sul peccato e sulla frattura tra l'io e il mondo non è nuova, ma forse è nuova proprio la declinazione e le modalità con cui questa si rivela nelle pagine e tra le pagine, a cominciare dagli aforismi per finire nei romanzi. E lasciamo ancora su questo tema la parola a Giacomo Marramao. Un passaggio cruciale del lavoro di Kafka è quello che riguarda gli anni poi della guerra, il pieno della guerra, che vanno dal 17 al 18. Tra l'autunno del 17 e la primavera del 18, se ben ricordo, Kafka butta giù 109 aforismi che in genere non vengono letti ma che sono molto importanti, raccolti dall'amico Max Brod, e sotto un titolo molto bello che vi traduco è Considerazioni sul dolore, il peccato, la speranza e la vera via, dove Kafka cerca di, come dire, dare una collocazione a questo momento di crisi. Non dimentichiamo che accadono tantissime cose dal punto di vista della cultura e della filosofia nell'Europa del Novecento, negli anni della Prima Guerra Mondiale, che sono anni di, appunto, di metamorfosi, di radicali trasformazioni, di crollo del mondo di ieri, come è stato scritto, no? La Welt von gestern, no? Ebbene, lì, in qualche modo, insomma, Kafka avverte questo dolore muto senza significato che è dovuto all'improvviso squadernarsi della assenza di coordinate. Non ci sono più assi cartesiani. E lui che cosa fa? Lui nel suo lavoro cerca di tracciare degli assi cartesiani, ma nella forma di una geometria assurda, in cui l'irraggiungibile, l'impenetrabile, l'incommensurabile è proprio il quotidiano. Dalla metamorfosi di Gregor al tribunale invisibile del processo, alla burocrazia irraggiungibile del castello, al grande albergo di America, e tra l'altro non dimentichiamo che America è un libro profetico, perché ci fa capire plasticamente quasi come Kafka, che non era mai stato in America, avesse capito perfettamente la natura dell'America, degli Stati Uniti, come ha colto perfettamente Jean-Marie Straub, grande regista Jean-Marie Straub, in un film tratto da America di Kafka che si intitolava Rapporti di classe. Ho avuto il piacere tanti anni fa di vederlo in anteprima con una delle protagoniste del film, che era la mia cara amica, che voglio qui ricordare, Laura Betti, che amava Kafka, che capiva perfettamente il sottofondo del discorso di Kafka, e Kafka aveva colto perfettamente, Jean-Marie Straub aveva colto perfettamente a sua volta la natura dell'America come un luogo in cui il potere si costituiva attraverso i rapporti di classe. Ma torniamo un po' agli aforismi, perché questi aforismi del 17-18 sono importanti, perché lì Kafka fa vedere come vi sia una tensione verso la redenzione, che però è impossibile, nel senso che è come se il cielo fosse caduto sulla terra, nel nostro quotidiano. È come se il quotidiano fosse diventato il paradiso in terra rovesciato. Da questo punto di vista Kafka sembra quasi anche un profeta, un preannunciatore del potere totale, del potere totalitario, dove la legge è tanto più potente quanto meno ha contenuti. E proprio prendendo spunto dalle parole di Giacomo Marramao e sulla ricchezza degli aforismi e dei frammenti. Leggiamo proprio un frammento dal terzo quaderno in ottavo. Com'è miserevole la mia conoscenza di me stesso, paragonata, per esempio, alla conoscenza che ho della mia camera. Perché non esiste osservazione del mondo interiore paragonabile a quella del mondo esterno? La psicologia è probabilmente nel suo insieme un antropomorfismo, un modo di corrodere i confini. Il mondo interiore può essere solo vissuto, non descritto. E nella Metamorfosi, ma non solo, pensiamo per esempio al racconto Davanti alla legge del 1914, troviamo il tema cruciale della porta, del limite, dell'imine tra uno spazio e l'altro e di come sia faticoso, se non impossibile, varcare queste porte che conducono o dovrebbero condurre a nuove certezze, a nuovi terrori o aprirsi verso dei mondi inconoscibili. Le porte sono chiuse, aperte o chiuse, a chiave, nella Metamorfosi assumono un ruolo centrale. Ed è sempre con noi Giacomo Marramao per offrirci la sua preziosa chiave di lettura. Le soglie invalicabili sono le soglie delle porte aperte, non delle porte chiuse. Lì è il paradosso, no? E questa, come dire, simbolismo della porta, del dentro e del fuori, è fondamentale in Kafka. Quante volte ricorre nelle opere di Kafka il termine porta? Ricorre centinaia di volte. E però noi, K, diciamo anche problema del nome, la questione del potere e la questione del nome si intrecciano, no? K è destinato a restare sulla soglia. E noi siamo destinati a restare sulla soglia. Possiamo sfuggire a tutto ciò soltanto attraverso la Metamorfosi. E lì c'è una grande intuizione di Canetti, no? Ovunque vi è potere, si temono le metamorfosi. Il potere è un tentativo di porre un interdetto alle metamorfosi, di bloccare la plasticità dell'animale umano. Adagio, adagio. Gregorio si spinse fino alla porta, tenendosi aggrappato alla sedia. Abbandonata la sedia, si lasciò andare dritto contro la porta. Le estremità delle sue zampine erano leggermente vischiose e si concesse un istante di riposo. Poi si accinse a far girare con la bocca la chiave nella toppa. Visto purtroppo che non aveva denti, come avrebbe potuto stringere la chiave? Gli venne in mente che disponeva di solidissime mascelle. Con il loro impiego riuscì a girare la chiave senza accorgersi d'essersi in qualche modo ferito, se non quando dalla bocca un liquido scuro cominciò a colare sulla chiave, gocciolando poi sul pavimento. «Senti!» disse il procuratore nella stanza accanto. «Sta girando la chiave!» Queste parole furono per Gregorio di grande incoraggiamento. Tutti avrebbero dovuto incitarlo, anche il babbo e la mamma. «Dai, Gregorio!» avrebbero dovuto gridare. «Non mollare! Dai sotto con la serratura!» Gli sembrava di vederli, mentre, pieni d'ansia, seguivano i suoi sforzi. Fece appello a tutte le sue energie e s'accanì frenetico sulla chiave. Accompagnava i progressi della chiave con una specie di danza intorno alla serratura. Reggendosi con la bocca, a seconda del bisogno, si sospendeva alla chiave o vi gravava sopra con tutto il suo peso. Il secco rumore d'uno scatto lo fece trasalire. Con un respiro di sollievo si disse: «Non ho avuto bisogno del fabbro», e fece pesare il capo sulla maniglia per tirare a sé l'uscio. La porta, a questo punto, era aperta. Ma Gregorio ancora non si vedeva. Doveva girare adagio, facendo molta attenzione intorno all'imposta aperta, se proprio sulla soglia non voleva cadere malamente all'indietro. Stava appunto compiendo con grande cautela questa manovra quando udì il procuratore emettere un che parve il lamento del vento. Poi lo vide portare una mano contro la bocca spalancata, stava davanti agli altri, e indietreggiare lentamente, quasi fosse spinto con pressione costante da una forza invisibile. La mamma, ancora coi capelli sciolti e scarmigliati, nonostante la presenza del procuratore, guardò a mani giunte il babbo. Fece due passi verso Gregorio, poi s'afflosciò a terra tra un gran spiegamento di sottane, sprofondando il viso nel seno. Il babbo strinse i pugni con aria minacciosa, quasi volesse ricacciare Gregorio nella sua stanza. Poi si guardò intorno smarrito, si mise le mani davanti agli occhi e scoppiò in singhiozzi. Gregor non si sorprende, non si scuote più di tanto per essersi trasformato in un gigantesco insetto. Ricompone delle sue abitudini, si adatta in qualche modo, perché è fuoriuscito dal gioco abitudinario del potere. Ma la cosa fondamentale che emerge nella Metamorfosi è che in tutta l'opera di Kafka, che è legatissima all'ebraismo, è questo tema dello straniamento. Noi non siamo padroni in casa nostra. L'io non è padrone in casa propria, è per quello che deve essere metamorfico. Noi non siamo padroni nella nostra casa, nella nostra famiglia. Espresso splendidamente da Sigmund Freud con l'espressione das unheimliche, che tradotto in italiano con il perturbante, ma è ciò che ci perturba, ciò che ci turba, in quanto è unheimlich, cioè il contrario della heim, è una sorta di, come dire, straniamento della casa, una sorta di, potremmo chiamarla, familiare straneità. In questo senso, appunto, ripeto, Canetti ha ragione, perché il potere è ciò che è in grado di rendere straniante la realtà, di invertire il senso dei rapporti, rendendo straniante il reale. E il potere è esattamente questo vuoto della norma, questo vuoto della legge, che soltanto un ebreo disaffiliato, un ebreo della diaspora, no? Un ebreo del galut, del termine ebraico per diaspora, è in grado di cogliere. A un certo punto ha scritto una volta Kafka: noi ebrei siamo un popolo disperso come una seminagione, come i semi attraiamo, però non possiamo mai compattarci fra di noi, perché siamo diasporici. E penso addirittura che questa condizione di straniamento nei confronti di qualunque luogo è in fondo la cifra anche della condizione di tutti noi nel mondo globalizzato. È un po' è il galut ebraico che si è universalizzato. Ancora Ladislao Mitner usa un'espressione geniale per definire la scrittura di Kafka e poi tutta quanta l'opera di Kafka: cubismo talmudizzato. È un cubismo talmudizzato, un cubismo che passa attraverso il Talmud, dove noi abbiamo una nuda location esistenziale, una nuda collocazione esistenziale che non è fissata ab inizio, ma che costituisce un punto di arrivo, in qualche modo è la situazione in cui viene a trovarsi l'esistenza dopo la liberazione, dalla figura paterna. E Nadia Fusini una volta ha scritto un testo in cui tocca questo punto, che a me sembra molto importante. L'altrove, in altri termini di Kafka, è sempre il tra, è lo zwischen, lo stare in mezzo, il tra, lo zwischen durch, lo stare in mezzo, e con però l'ansia di giungere a una qualche forma di redenzione. Qui il punto fondamentale, voglio citare un aforisma, lo cito a memoria perché ho dimenticato di portare con me il testo, uno degli aforismi che a me sempre mi ha colpito sempre moltissimo, delle considerazioni sul dolore, il peccato, la speranza e la vera via, quando Kafka dice ciò che conta non è la via, ma la meta, la fine, il punto terminale. Quella che chiamiamo via non è altro che la nostra esitazione. Io trovo bellissima questa cosa, perché è un po' è questa pathos della redenzione, pathos trattenuto che abbiamo in Kafka, no? E che in qualche modo poi attraversa questi straordinari aforismi come anche i suoi romanzi e i suoi racconti. Gregorio non entrò nella stanza. Appoggiato all'imposta rimasta chiusa e mostrando solo metà del corpo, fissava gli astanti col capo piegato da una parte. Intanto s'era fatto molto più chiaro. Traverso la finestra si vedeva benissimo un pezzo del lungo fabbricato di rimpetto, un ospedale di colore grigio ferro, con le sue finestre tutte uguali ritagliate sulla facciata. La pioggia non era cessata. Cadevano ancora grosse gocce ben distinte che finivano a terra una per una. Piatti, vasetti, chicchere e altro coprivano ancora il tavolo. Per il babbo la prima colazione era il pasto più importante della giornata ed egli lo protraeva per ore leggendo diversi giornali. Sulla parete di fronte era appesa una fotografia di Gregorio al tempo del servizio militare. In uniforme di tenente, la mano sulla sciabola, sorrideva gaio e imponeva insieme rispetto. E con la splendida voce di Nando Gazzolo si sta per chiudere questa seconda puntata della nostra indagine su Kafka attraverso la metamorfosi, lettura nella traduzione di Giorgio Zampa con le musiche a cura di Lorenzo Chiera e la regia di Luigi Durissi. Alla pagina di Radio 3 Chi ha ucciso Gregor Samsa vi ricordo che potete trovare la lettura integrale sia nella modalità di ascolto sia in podcast. A questo punto non mi resta che ringraziare gli ospiti di oggi.